Giallo e nero di Daniele Biacchessi. 4 aprile 2002, Guidonia Montecelio, due passi da Roma. In un appartamento di via Lucera vive Michele Landi, 36 anni. È una sera come altre. Landi torna a casa alle 4 del mattino dopo aver passato una serata con amici. Passano le ore. I carabinieri entrano in casa e lo trovano impiccato nel soggiorno. La porta chiusa, la luce accesa, la finestra aperta. Il suo ultimo contatto con l'esterno è un messaggio di posta elettronica, inviato alle 4:30 del mattino ad un amico. Poi soltanto un lungo silenzio. La morte di Michele Landi risale alle ore 18. Michele Landi cresce a San Giusto, in provincia di Pisa. Le materie scientifiche sono la sua passione. Poi c'è l'amore per la velocità, il volo, un brevetto come pilota di Alianti, lanci da paracadutista, il mare, la vela e il giornalismo specializzato, computer e tecniche informatiche. Negli anni Ottanta lavora su sofisticati sistemi di difesa militare come il progetto Katrin. Nell'inchiesta sull'omicidio del professore Massimo D'Antona, Landi è consulente informatico dell'avvocato Rosalba Valori, che difende Alessandro Geri. Il lavoro di Landi in quell'inchiesta risulta determinante. Dimostra l'estraneità del giovane all'omicidio. Landi è anche il responsabile di sicurezza del settore tecnologico della Lewis Management e docente di tecnologia informatica ai corsi della Guardia di Finanza. Svolge delicate consulenze per le procure di Roma, Palermo e per i servizi segreti militari. Quando muore Landi non lascia alcun biglietto d'addio. Non soffre di depressione, è sereno. In quei giorni Michele Landi lavora all'inchiesta sulla morte del consulente del Ministero del Welfare Marco Biaggi, ucciso dalle Brigate Rosse il 19 marzo 2002 a Bologna. È un suicidio, sostengono subito gli investigatori e l'allora ministro dell'Interno Claudio Scajola. Ma i dubbi restano, troppe sono le coincidenze. Pino Scaccia del TG1 si reca subito a Guidonia Montecelio poco dopo la morte di Michele Landi. Era stato lui a studiare, analizzare, decifrare il documento con cui le Brigate Rosse rivendicarono 3 anni fa il delitto d'Antona. Non solo, Michele Landi aveva anche contribuito alla realizzazione degli identikit del comando di Via Salaria. Grande esperto di informatica, era stato contattato più volte di recente anche per scoprire le similitudini con l'ultimo documento BR, che attraverso internet ha rivendicato l'attentato al professor Biaggi. Quello che apparentemente è sembrato un gesto drammatico, disperato, ha subito assunto contorni inquietanti quando si è scoperta l'identità della vittima. Michele Landi, 36 anni, è stato trovato impiccato a una lunga corda ieri sera nel suo appartamento di Guidonia, nei pressi di Roma. Quando hanno sfondato la porta, i carabinieri, allertati dalla fidanzata della vittima, si sono ritrovati la scena inequivocabile di un suicidio, ma alcune anomalie riscontrate poi dal medico legale e soprattutto la personalità e la nota esuberanza di Landi hanno generato molti sospetti. Chi lo conosceva bene assicura che era una persona lontanissima dalla depressione e che anzi attraversava un periodo particolarmente brillante. Qualche ora prima di morire era stato in un locale insieme a un gruppo di amici. Era euforico del suo lavoro. «Ho fatto una grande scoperta», aveva detto. Per capire la sua morte bisognerà capire cosa aveva scoperto. Da genio dell'informatica, forse una traccia che portava direttamente ai terroristi. Anche Francesco Vitale del TG2 si occupa del caso della morte di Michele Landi. Michele Landi era una persona serena che amava il suo lavoro e lo faceva a livelli altissimi. È stato trovato impiccato in casa sua, in questo borgo di Guidonia Montecelio, a 2 passi da Roma. Michele conosceva certamente molti segreti delle indagini giudiziarie a cui aveva lavorato come esperto informatico. Della sua collaborazione si erano avvalse diverse procure, Roma e Palermo in particolare, ma anche parecchi uffici investigativi. Aveva dato consulenze su Ustica, sulle stragi di mafia, fino al caso D'Antona. Un genio nel suo campo, lo definì. Gli amici e i parenti, un genio che non aveva molte ragioni per suicidarsi, anche se ultimamente aveva avuto dei problemi economici. Ma lui ai soldi non badava per niente, ha dichiarato la sua fidanzata. Una persona piena di vita, con tanti hobby ed interessi, che però ultimamente non si sentiva tranquillo. Secondo quanto hanno riferito gli amici e i carabinieri, il giovane aveva infatti il sospetto di essere pedinato. Sempre dagli interrogatori che vengono condotti in queste ore sarebbe emerso un altro particolare. Pare che Michele da qualche tempo andasse raccontando di aver fatto una clamorosa scoperta sul disastro di Ustica, ipotesi al vaglio della procura e dei carabinieri di Tivoli. C'è poi un dubbio anche sulla posizione del cadavere ritrovato con le ginocchia appoggiate sulla spalliera del divano che stava sotto la scala da cui si sarebbe lanciato il perito. Di certo, fino alle 16 di giovedì, Michele era ancora vivo. I vicini hanno sentito un gran trambusto provenire dal suo appartamento, come di chi stesse spostando dei mobili. Va ricordato che non sono stati trovati segni di scasso alla porta di Casalandi e che il cadavere non presentava ecchimosi, come di chi ha dovuto sostenere una colluttazione. Quattro giorni prima della morte, Michele Landi cancella dal suo sito internet file coperti da password segreta. Risultano alla data del 1 aprile 2002 5 interventi di cancellazione. Una settimana dopo l'impiccagione, un pirata informatico viola il suo sito e compie manipolazioni. Il 16 maggio 2002, Pino Scaccia del TG1 e Grazia Dei del TG2 tornano nuovamente a Guidonia di Monteceglia. I dubbi sono diventati concreti quando i magistrati hanno scoperto che Michele Landi, grande esperto di informatica, aveva due siti. Uno, questo, che pubblicizzava la sua attività, e un altro segreto dove nascondeva i lavori più delicati. Non solo, dopo la sua morte erano stati cancellati dal sito riservato tutti i file, utilizzando una password che naturalmente solo la vittima conosceva. Un dato inquietante che in qualche modo avvalorava il racconto dei suoi amici, soprattutto di Dario, l'ultimo che l'ha visto vivo, che hanno riferito agli inquirenti una battuta ricorrente: ho fatto una grande scoperta. Naturale pensare alle rivendicazioni via internet dell'omicidio Biagi, di cui Landi si era interessato, dopo essere stato addirittura uno dei periti nel delitto d'Antona. Adesso la procura di Tivoli ha aperto un fascicolo per omicidio volontario, dopo i dubbi sul suicidio espressi più volte con forza dalla famiglia. Io e la mia famiglia lo escludiamo nella maniera più assoluta che mio fratello si possa essere suicidato. Non ne aveva alcun motivo. Solo un'ipotesi chiarisce informalmente il PM, ma alcune anomalie riscontrate durante il ritrovamento del cadavere e sembra, soprattutto gli ultimi esami tossicologici, meritano secondo i magistrati un approfondimento. Forse Landi non si è impiccato. Potrebbe essere stato ucciso Michele Landi, lo avevano trovato senza vita il 4 aprile scorso nella sua casa a Monteceglio di Guidonia, vicino a Tivoli. Secondo l'autopsia, morte per asfissia dell'esperto informatico, trovato impiccato nel soggiorno, le gambe piegate sul divano. Fin dall'inizio suicidio, la pista investigativa privilegiata, eppure Michele Landi, la notte fra il 3 e il 4 aprile, l'aveva trascorsa in un pub con degli amici, era tranquillo, scherzava, avrebbe detto dopo chi lo conosceva bene. Eppure Michele Landi non poteva aver scelto di farla finita, continuavano a ripetere familiari, amici, conoscenti dell'esperto informatico. Adesso la svolta. L'intestazione del fascicolo è cambiata. La procura di Tivoli da qualche giorno procede per omicidio, ipotesi di reato contro ignoti per il momento. Sarebbero stati gli ultimi esiti investigativi a dare nuovo impulso alle indagini del PM Salvatore Scalera. I misteri da chiarire: perché Landi al momento della morte sarebbe stato completamente ubriaco secondo i risultati degli esami tossicologici? E poi da chi sono stati cancellati quei file contenuti nel computer di Landi, custoditi in un sito segreto a cui solo lui aveva accesso? Lui era stato più volte consulente informatico nell'ambito di alcune inchieste giudiziarie, anche quella sull'omicidio di Massimo D'Antona. Dopo la pausa, Giallo e Nero torna a raccontare la morte del perito informatico Michele Landi. Giallo e Nero di Daniele Biacchessi. Due interviste a Michele Landi ci conducono al punto esatto dell'indagine sull'omicidio di Marco Biagi. L'indirizzo IP del computer da cui è partita la rivendicazione delle Brigate Rosse. 22 marzo 2002. Michele Landi viene intervistato dalla trasmissione di Radio Rai Baobab. Il perito informatico sembra tranquillo, rilassato. Possibile rintracciare queste persone? Ma sì, Diciamo di sì, perché contrariamente a quanto si pensa, tutto quello che viaggia su internet lascia comunque inevitabilmente un segno, una sorta di firma elettronica, e anche in questo caso evidentemente un segno è stato lasciato. E come si fa allora a risalire, a identificare questo segno e a risalire tramite il segno alle persone? Dunque, tutto ciò che si affaccia, diciamo, su internet riceve automaticamente o gli viene assegnato una sorta di firma elettronica univoca in tutto il mondo, cioè che identifica quindi solo e solo quella risorsa o quella persona, che è caratterizzata da un numero composto da quattro cifre. Nella fattispecie il numero da quattro cifre è stato, diciamo, assegnato dal punto di accesso che il mittente di questa rivendicazione ha utilizzato. Punto di accesso che abbiamo letto oggi sui giornali, quindi non è più un segreto, è fornito dal fornitore InWind. Normalmente i fornitori di questo tipo di servizio, quando forniscono la connettività a chi telefona, quindi questo vale anche con gli altri provider, si segnano, registrano da una parte su un apposito registro che si chiama log anche il numero di telefono del chiamante in maniera univoca e inequivocabile. Quindi in questo caso, associando questo numero IP che era viaggiato insieme all'email al provider, allora si risale al numero di telefono del chiamante. Da come lo dice sembra un'operazione estremamente semplice, è così? Dunque, diciamo che si tratta di operazioni abbastanza semplici, proprio per questo, essendo basate su tecnologie abbastanza semplici, possono essere talvolta eluse. Nella fattispecie, in questo caso, io ho avuto modo di, diciamo, vedere il documento, quello che posso intuire è che poi così sprovveduto chi ha mandato questo mail non sia stato. Evidentemente né in questo caso probabilmente è stato utilizzato un telefono cellulare la quale carta magari è stata acquistata con un'identità non corretta, e allora a questo punto tutto questo sistema viene un po' a cadere, perché io è vero risalgo al numero dell'utenza, ma non so poi chi quel telefono l'ha effettivamente utilizzato. In questo caso dunque non sarebbe affatto possibile rintracciare le persone che hanno inviato il documento? Dunque non è vero neanche questo, perché fortunatamente da quando abbiamo i telefoni in rete satellitare, in rete cellulare GSM, da quando abbiamo gli accessi internet i cui numeri di telefono vengono registrati, quindi abbiamo le centrali elettroniche, abbiamo una mole di informazioni tali e anche retroattiva, anche di qualche anno, che messa opportunamente in riferimento l'un con l'altra con una ricerca incrociata può fornirci una serie di elementi molto utili ai fini dell'attività investigativa. Nel caso del cellulare, anche questo non è più un segreto, diciamo che dovendo egli registrare la propria presenza all'interno di una cella che ha un raggio geografico molto limitato, è chiaro che quel cellulare addirittura possa risalire agli spostamenti che ha fatto geograficamente negli ultimi mesi. Ma gli spostamenti geografici degli ultimi mesi crede che poi siano facilmente abbinabili a una persona? Diciamo che questo elemento incrociato con altri elementi potrebbe portare, come è già successo poi nel passato, potrebbe portare a identificare una persona. È il 27 marzo del 2002. Michele Landi viene contattato da Radio 24. Al microfono della nostra Raffaella Calandra, l'esperto di sicurezza informatica sembra più nervoso. Come se nel frattempo fosse successo qualcosa di strano nella sua vita. Un segno è stato lasciato, un segno abbastanza inconfondibile, in questo caso si tratta del famoso numero IP che risale evidentemente a una risorsa, quindi in questo caso ad un accesso di tipo telefonico, e da lì si risale poi al numero di telefono del chiamante. Dunque è un numero d'accesso di Roma della società Wind, in questo caso si è visto che corrispondeva a un numero d'accesso di Roma a cui si può telefonare sia con un cellulare che con un telefono di casa, senza, anche con abbonamento telefono piuttosto che infostrata. Ma da lì poi a cercare di individuare da dove è stata fatta la telefonata è possibile? Allora, non so, semplice, perché ogni qualvolta che ci si collega ad un internet service provider, questo provider è tenuto a registrare contemporaneamente il numero telefonico del chiamante. Ogni telefonata, che sia da un cellulare o che sia da un telefono fisso, è accompagnata da dove è uno scuro il numero di telefono, dal PIN, no? Dal codice di identificazione del chiamante. In quel caso viene associato l'ora col numero del chiamante gli viene assegnata quella connessione, viene assegnata per il numero IP. Chiamo il provider e gli dico, mi dici a quell'ora, a quel numero IP, a quel numero di telefono del chiamante l'associato. Ovviamente ci vuole un decreto del magistrato che segue l'indagine. E il provider è tenuto a fornire il numero del chiamante. Quello che io ho avuto modo di vedere informalmente è stato il numero IP. Io per certo le posso dire che l'informazione, e questo è tecnicamente dall'email che ho visto, che non è mai partita da un cybercaffè, questo è sicuro. Pare, siccome si parla di una telefonata che è avvenuta a Roma, in una zona che è compresa fra Piano Pratico e la Bandolina, io credo che sia stata effettuata questa chiamata da un telefono cellulare. Visto che a quel numero IP corrispondeva un numero cellulare, avranno chiamato poi il provider di telefonia cellulare e gli avranno chiesto quel cellulare a quell'ora quale cella stava occupando. Avranno identificato una zona di interesse che è compresa in quell'area. Si tratta del secondo caso di una rivendicazione fatta via mail. Sì. Ci sono delle analogie? Sì. La prima volta fu mandata da un cybercaffè. Diciamo tecnicamente sulla modalità di spedizione no. Credo però che la matrice sia esattamente la stessa e probabilmente la mano è esattamente la stessa. E che ci sta un elemento che adesso chiaramente non si può dire, che è praticamente molto, molto simile nei due casi. Diciamo, nella tipologia, nel modo in cui sono stati mandati i messaggi. A quale titolo Michele Landi lavora sul caso di Marco Biagi? Michele Landi non è un poliziotto, neppure un carabiniere, non è un magistrato. Dalla Procura di Bologna non riceve incarichi particolari per occuparsi della rivendicazione dell'omicidio di Marco Biagi. Mi occupo a titolo puramente informale, dice Landi. Però dimostra di conoscere il luogo da cui parte il messaggio di posta elettronica e rivela notizie coperte dal segreto istruttorio in una fase assai delicata dell'inchiesta. Incrociando il filone investigativo di tipo tecnologico con attività tradizionali, si arriva, dice Landi, a identificare se non l'individuo almeno una ristretta cerchia di sospetti. Landi dunque suggerisce un percorso investigativo per giungere in fretta agli esecutori dell'omicidio di Marco Biagi. Ma Landi non riesce a finire l'inchiesta e nel novembre 2003 la sua morte sarà archiviata dalla Procura di Tivoli come suicidio. Secondo i magistrati, Michele Landi non è stato ucciso, ma si è suicidato, forse durante un gioco erotico solitario. Sono le conclusioni del pubblico ministero della Procura di Tivoli, Salvatore Scalera, nel documento in cui vi è una richiesta di archiviazione del procedimento aperto per il reato di omicidio a carico di ignoti. L'informatico Michele Landi avrebbe fatto tutto da solo, impiccandosi con una corda attaccata ad una balaustra nel piccolo appartamento che aveva affittato a Montecelio. Ma qualcosa non quadra, scriveva Marco Nozza, giornalista del Giorno, è solo una coincidenza. Due coincidenze restano sempre due coincidenze. Tre coincidenze sono un indizio, ma quattro coincidenze sono una prova. Marco Mezzasalma, uno dei brigatisti arrestati e processati per gli omicidi di Massimo D'Antona e Marco Biagi, possedeva il permesso NOS, NOS, quello che serve per accedere ai documenti top secret di SISDE e SISMI. Il nome di Michele Landi compare in alcune carte trovate nell'abitazione di Marco Mezzasalma. Gli uomini della Digos hanno sequestrato articoli di giornale ritagliati accuratamente riguardanti la morte del consulente informatico. Marco Mezzasalma è il brigatista che materialmente invia a centinaia di indirizzi di posta elettronica la mail con il documento di rivendicazione dell'assassinio di Marco Biagi. Elena Landi, la sorella di Michele Landi, continua ancora oggi a cercare una spiegazione plausibile sulla morte di suo fratello. Io ho considerato due possibilità, che poteva essere o il suicidio o l'assassinio. Ho escluso a priori il gioco erotico, per il semplice motivo che uno che torna a casa tardi, cioè rientra quasi la mattina e il giorno dopo ha delle lezioni da dare, non si mette a fare un gioco erotico. Sul discorso comunque tra il suicidio e l'assassinio, trovo strano che comunque se una persona comunque si suicida, una procura sequestra tutti i computer, tiene chiusa a casa per un anno e mezzo, moto e macchina ancora sequestrate, la dichiarazione a poche ore dall'autopsia senza ancora risultati comunque tossicologici di Scaiola. Sono tutte cose che mi pongono un interrogativo. Il fatto che noi come famiglia non sapevamo che lui si occupasse di queste consulenze. Lei ha ascoltato l'intervista di Radio 24, l'ultima intervista di suo fratello. Che idea si è fatta di quell'intervista? Ma io per esempio ho sentito la prima intervista fatta a Baobab e questa di Radio 24, sono differenti, nel senso che la prima mi sembra molto generica, la seconda mi sembra estremamente dettagliata, ma i due stati d'animo sono diversi, cioè nel senso che nella prima è più rilassato, nella seconda è molto nervoso. Non lo so il perché essere così dettagliati, se per proteggersi o è stato un atto di ingenuità. Che cosa stava lavorando suo fratello? Questa è bella domanda, nel senso che comunque noi siamo sempre stati tagliati fuori e quando comunque lui è morto ho cominciato comunque a vedere il movimento della stampa, cioè per me sembrava allucinante che una persona comunque sconosciuta muovesse tutto organi di stampa. Non lo so, mi piacerebbe saperlo. Giallo e Nero, un programma di Daniele Biacchessi. Infoline dbiacchessi@radio24.it.